si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buona giornata cari ascoltatori, eccoci qua dalle 7.30 sino alle 10, il buongiorno del sabato su Radio 24, la domenica invece dalle 8.30 sino alle 11, leggeremo insieme le prime pagine dei giornali, poi interviste, approfondimenti, Carlo Gabardini, il numero verde per intervenire, i nostri contatti subito, se volete interagire in tempo reale con noi, l'account di Twitter è @sipoffare24, il mio @AleMaurizzi. Cominciamo subito con una buona notizia. And now, the good news! Creano posti di lavoro, fanno bene alle nostre città, ci evitano di andare in periferia con l'auto a fare la spesa, sono i mercati rionali, ebbene a Roma €1 milione per rivitalizzare, far ripartire, rinascere 5 mercati rionali, quello dell'Esquilino, del Testaccio, Centrofiori, Villa Gordiani e anche un mercato della Pagliatore ad Ostia, insomma una buona notizia per il commercio. Al dettaglio nelle nostre città. Ma cominciamo a dare un'occhiata sulle pagine dei giornali dove si parla naturalmente dei provvedimenti varati ieri dal governo, si discute se l'abolizione del finanziamento ai partiti sia anche questa una buona notizia o no, soprattutto se sia reale oppure se il dilazionamento dei tempi, si partirà nel 2018, sia tale da al momento dar ragione a Grillo che dice sostanzialmente che non è così, che non c'è nessuna abolizione del finanziamento ai partiti, ma andiamo a vedere. Prima pagina del Corriere, basta fondi pubblici ai partiti, Letta promessa mantenuta, ora decidono i cittadini. La lettura che danno molti commentatori è anche questa: il Premier anticipa le mosse di Renzi. Competition is competition, scrive Verderami. Renzi aveva preannunciato per domani una sorpresina a Grillo sul taglio dei soldi alle forze politiche. Ieri Letta ha fatto una sorpresina a Renzi anticipando il varo del decreto sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Il taglio totale dal 2017, scrive il Corriere, possibili finanziamenti solo con la formula del 2 per 1000. Andiamo a vedere qualche approfondimento. Insomma, siamo diventati un po' più americani, perché il finanziamento pubblico ai partiti esiste in Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito, in Giappone non esiste, o meglio esiste ma in un modo che non è molto praticato negli Stati Uniti, perché, scrive il Corriere a pagina 3, in uno schema che riassume tutte le casistiche, durante la campagna per le presidenziali, primarie incluse, i candidati possono usufruire del finanziamento pubblico in America, che però esclude per legge quelli privati ed è più modesto, quindi molti candidati lo rifiutano, cioè scelgono di farsi finanziare dai privati e non dal pubblico. La legge italiana esclude d'ora in poi, se non nella forma del 2 per 1000, finanziamenti diciamo statali diretti, è quello che accade in Francia, i partiti usufruiscono del finanziamento pubblico, ogni voto frutta circa €1,70, in Spagna circa €130 milioni di contributi con un sistema di finanziamento misto, in Germania lo Stato fissa ogni anno un tetto complessivo che per il 2013 è stato il più alto della storia, €154 milioni, una storia simile accade anche nel Regno Unito e in Giappone. Dice, ma perché in Italia siamo passati a questo punto? La notizia di spalla, per esempio, dalla Lombardia è questa: altri €500.000 di rimborsi elettorali truccati contestati alla Lega e al PDL in Lombardia dalla Corte dei Conti, quindi è chiaro che con un sistema dei partiti come questo in Italia non si poteva che arrivare a discutere dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che secondo qualcuno apre le porte solo a chi ai grandi finanziatori, insomma ai partiti che avranno alle loro spalle grandi finanziatori, però ci vorranno anni, come per esempio ci ricorda in maniera abbastanza efficace Libero: per noi IMU vera, per loro tagli finti. Ma che abolita, la tassa sulla prima casa si paga in 2400 comuni, l'eliminazione invece del finanziamento ai partiti è una panzana. Ecco perché, e scrive Franco Bechis, è una panzana, il finanziamento pubblico resta in vigore come prima, la novità è solo che i soldi dalle casse dello Stato a quelle dei partiti andranno seguendo strade più fantasiose e diverse da quelle quelle esistenti. Nel 2014 andranno ancora 91 milioni di euro ai partiti, nel 2015 ancora 91 milioni, nel 2016 il finanziamento pubblico ci sarà sempre ma scenderà a 77 milioni, dal 2017 in poi il finanziamento pubblico abolito, tra virgolette, costerà alle casse dello Stato ancora 72 milioni di euro. Ed è questo il motivo per cui molti dicono che appunto la riforma è stata troppo graduale. C'è un'intervista al ministro Quagliariello sul Messaggero a questo proposito e gli viene chiesto: ma non è una riforma un po' troppo graduale? Risponde Quagliariello: comincia dal 2014, anche se, come abbiamo visto, le cifre sono invece quelle per cui comincia dal 2018 in termini di dimagrimento vero delle cifre. Continua Quagliariello: è una breve fase di transizione, è inevitabile. L'obiettivo della riforma non è infatti quello di uccidere i partiti, ma di dare ad essi più trasparenza. Il finanziamento alle forze politiche deve essere volontario, ma i partiti sono delle istituzioni di fatto e quindi lo Stato ha interesse a favorire questo finanziamento. Non si capisce benissimo perché, se i partiti, come dice Quagliariello, sono delle istituzioni e il finanziamento viene abolito, allora non si capisce perché non abolirlo da subito in maniera più netta. Vabbè, ma le riforme spesso sì, hanno questa gradualità. In Italia in particolare accade che si facciano degli annunci e poi si fa sempre in tempo a tornare indietro, a cambiare. Dalla prima pagina del Messaggero leggiamo anche un'altra notizia che riguarda sempre i provvedimenti in area di governo. Ieri arriva la Google Tax, sconti sull'RC Auto e taglia le bollette. Destinazione Italia, il provvedimento varato dal governo, prevede appunto l'agevolazione per il credito e le detrazioni sui libri. Leggiamo: primo sì a un emendamento alla legge di stabilità, e questo è un aspetto, che introduce la cosiddetta Google Tax, cioè i colossi del web dovranno pagare l'IVA. Intanto dal primo Consiglio dei Ministri, dopo la fiducia, viene varato il provvedimento Destinazione Italia. Sono previsti sconti sulla RC Auto e tagli alle bollette, oltre ad agevolazioni sul credito e detrazioni sui libri. Di questo parlano un po' tutti i giornali e avete sentito un po' di servizi anche nei nostri giornali radio. Torniamo agli argomenti, agli altri argomenti. Sulla prima pagina, per esempio, di Repubblica, oltre al titolo Blitz di Letta via i soldi ai partiti, dal 2017 solo finanziamenti privati, Grillo attacca, basta chiacchiere, ci sono altre notizie. Forconi sotto accusa, vergognoso antisemitismo, cresce la tensione per la protesta che blocca le città, arriva anche la condanna di Palazzo Chigi, i manifestanti dicono avanti a oltranza fino a Roma. Andiamo a leggere velocemente che cosa è successo, le frasi sugli ebrei del leader torinese del coordinamento 9 dicembre, il contadino Sufi convertito all'Islam, Andrea Zunino, affidate ieri a Repubblica, vengono respinte a sera anche da Enrico Letta. Ho letto certe vergognose frasi antisemite, dice il Premier, e questo è un momento, è un monito a tutti coloro che strumentalizzano questa protesta affinché si rendano conto. Cosa aveva detto Zunino? È curioso, aveva detto che 5 o 6 tra i più ricchi al mondo siano ebrei, l'Italia è schiava dei banchieri ebrei. E ancora diceva, a proposito, una forma di revisionismo storico anche qua: non ho le prove, ma penso che Hitler, che probabilmente era pazzo, si sia vendicato con l'antisemitismo del voltafaccia dei suoi iniziali finanziatori americani. Cioè un modo probabilmente da parte di Zunino di così di temperare, di ridurre l'antisemitismo e il genocidio compiuto da Hitler nei confronti degli ebrei. La reazione del presidente delle comunità ebraiche italiane, si resta davvero sgomenti di fronte a baggianate come queste. Comunque leggiamo, Renzo Gattegna ha detto, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: le parole di Zunino sono la riproposizione di stereotipi tipici di movimenti e gruppi governi caratterizzati nel corso dei secoli da una chiara connotazione antisemita e sono frutto, nella migliore delle ipotesi, di una totale mancanza di cultura storica. Va bene, i Forconi che nel frattempo, con magari sfumature diverse e meno stupidi o antisemite, annunciano che ci sarà la manifestazione mercoledì a Roma, nessuna marcia su Roma, dicono non vogliamo rischiare che qualcuno spacchi le vetrine, siamo contro i facinorosi. A guardare a quel che si è visto in questi giorni non sembrava insomma. Ci fermiamo per una breve pausa, poi diamo la parola ai giornali europei, torniamo invece noi dopo il giornale radio, a più tardi. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno e ben ritrovati cari ascoltatori, potete cominciare anche a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24 per commentare quello che sentite, i fatti della settimana, anche per raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana. E anche oggi in palio una smart box per due persone, addio stress. Al racconto più bello, a giudizio insindacabile nostro, cioè della redazione, di che cosa ha reso bella la vostra settimana, cose personali ma anche notizie che riguardano la vostra città, il vostro quartiere, il vostro posto di lavoro. Ma riprendiamo a dare un'occhiata alle pagine dei giornali dopo aver cominciato a farlo alle 7:30 come ogni sabato mattina. I titoli sono dedicati naturalmente principalmente alle misure varate dal governo, l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, però si è aperto il dibattito sul fatto se questa abolizione sia vera, presunta, fasulla, come dice Grillo, o quantomeno sulla scansione temporale che prevede tempi un po' lunghi per cui fa storcere un po' il naso ad alcuni. Corriere della Sera titola basta fondi pubblici ai partiti, Letta promessa mantenuta, ora decidono i cittadini, il taglio totale dal 2017, possibili finanziamenti solo con la formula del 2 per 1000, il commento di Verderami, il Premier anticipa le mosse di Renzi, anche questa è una chiave interpretativa, il fatto che Letta si sarebbe mosso sulla spinta dell'arrivo alla segreteria del PD di Renzi, che sull'abolizione del finanziamento ai partiti era stato sempre molto chiaro e netto, ma l'aveva promesso anche Letta. Stiamo diventando un po' più americani, perché come ci ricorda Corriere della Sera a pagina 3 in uno schema, il finanziamento pubblico ai partiti c'è in Francia, c'è in Spagna, c'è in Germania, c'è nel Regno Unito, c'è in Giappone, in modalità diverse, non c'è praticamente solo negli Stati Uniti, dove è meglio, esiste ma è molto moderato e va scelto da parte dei candidati in alternativa al finanziamento privato, che è molto più succulento, viene scelto generalmente quello per cui la maggior parte dei candidati rinunciano al finanziamento pubblico. Lettura diversa quella che per esempio da Libero, per noi IMU vera, per loro tagli finti, ma che abolita la tassa sulla prima casa, si paga in 2400 comuni, l'eliminazione del finanziamento ai partiti è una panzana, ecco perché, scrive Franco Becchi, se l'abbiamo letto anche prima lo ricordiamo per chi non era all'ascolto, le cifre sono queste: nel 2014 si pagheranno 91 milioni di euro ai partiti, nel 2015 altri 91 milioni di euro, nel 2016 la cifra scende ma a 77 milioni di euro, dal 2017 in poi il finanziamento pubblico abolito costerà alle casse dello Stato 72 milioni di euro. Insomma, i tempi appunto sono un po' lunghi, e si fa sempre in tempo forse a cambiare di nuovo? Probabilmente no. Però insomma, le ragioni per cui diciamo prendere con le molle questa misura ci sono tutte. Sulla prima pagina di Repubblica, invece, oltre al titolo Blitz di Letta, via i soldi ai partiti, anche quello sui forconi sotto accusa, vergognoso antisemitismo. Cresce la tensione per la protesta che blocca le città, la condanna di Palazzo Chigi per le frasi antisemite che abbiamo letto prima, carico il portavoce del comitato 9 dicembre, Andrea Zunino, abbiamo già letto le frasi, forse non vale la pena neanche ricordarle se c'è tempo dopo. E c'è anche un'intervista sulla prima pagina di Repubblica a Maurizio Landini, il segretario della FIOM, che dice sono pronto al dialogo con Renzi, e questa è una cosa interessante, nuova, perché Renzi insomma, ha espresso più volte apprezzamento per Marchionne, Landini numero uno giurato del numero uno della Fiat, e quindi è interessante che ci sia questo dialogo a distanza. Di che si tratta? Dice Landini: Renzi è stato eletto sulla base di un richiamo alla necessità di un cambiamento. Bene, è un bel po' che noi della FIOM diciamo che si deve cambiare, perché non c'è mai stata una fase con questi livelli di ingiustizia sociale, così come non è mai stato così grande la svalorizzazione del lavoro. Quali sono i punti di incontro? Gli viene chiesto a Landini. Innanzitutto quello sulla democrazia. Renzi ha usato un processo ampiamente democratico per conquistare la segreteria del PD. Al contrario, dice Landini, non ci sono più le regole democratiche nei luoghi di lavoro. In questi anni si sono approvate leggi contro il lavoro, si sono cancellate le pensioni, i lavoratori hanno perso il diritto di votare sui contratti e sugli accordi. Ma dice l'intervistatore di Repubblica, CGIL e CISL e UIL non hanno fatto a maggio un accordo con la Confindustria su questo? Addirittura venne definito un accordo storico. È gravissimo che non sia stato ancora applicato, dice Landini. Però ci sono anche dei punti di rottura, di divisione evidente tra Landini e Renzi. Infatti la domanda: l'economista più ascoltato da Renzi, Gutgeld, propone per i giovani un contratto unico a tempo indeterminato senza però l'articolo 18. Lei che cosa ne pensa? Non sono d'accordo, dice Landini. L'articolo 18 è già stato manomesso. E quanti nuovi posti ha creato? Quante multinazionali sono venute in Italia? La risposta che sottintende Landini è nessuna, e certo i dati sulla disoccupazione in questo momento gli danno ragione. Poi, invece, un altro punto di contatto: Renzi ha apprezzato le sue posizioni critiche nei confronti del sindacato. Lei ricambia sulla politica, serve la rottamazione, risponde Landini. Non condivido la parola rottamazione, certo un cambiamento profondo comporta anche un cambiamento delle persone. E questa è l'intervista a Maurizio Landini, che dice appunto: sono pronto a un dialogo con Renzi, che trovate oggi su Repubblica. Ma dicevamo dei forconi, c'è anche questo, il Pantheon dei forconi sulla Stampa. Diciamo i VIP, in questo caso sono tutti e tre cantanti, che hanno fatto così da testimonial alle manifestazioni di piazza. C'è Fausto Leali, c'è Povia, che si è palesato a Modena e ha detto bisogna uscire dall'euro. C'è Gigi D'Alessio, che ha espresso solidarietà ai forconi, si è detto pronto a bloccare l'autostrada con un concerto per difendere gli abitanti della Terra dei Fuochi. E questa è la connotazione, diciamo, campana per quanto riguarda forse i forconi, ma la Terra dei Fuochi è un altro capitolo ancora della vicenda italiana. A proposito, no, anzi, cambiamo giornale, andiamo sull'Unità, che ci ricorda presidenza PD, Cuperlo dice sì a Renzi. Infatti, dopo il pressing della sua area e quello di Renzi, Gianni Cuperlo ha detto sì, sarà lui il presidente del Partito Democratico. Il sindaco lo ha rassicurato, nessuno ti chiede di non dire la tua. Fassina commenta una scelta di responsabilità. Dalla prima pagina dell'Unità troviamo anche questo commento di Maria Novella Oppo, che tra l'altro è quella giornalista che ha scatenato putiferio da parte di Grillo sul suo blog contro i giornalisti, segnalatecene uno al giorno, perché l'articolo incriminato era quello di questa Maria Novella Oppo, che denigrava un po' il lavoro dei parlamentari grillini in Parlamento. Ma a parte questo, di cosa si occupa oggi Maria Novella Oppo? Il titolo è Adolf Hitler, chi era costui? Io non lo sapevo, ma è successo questo. Giovedì, nel quiz preserale di Rai 1, che tante soddisfazioni dà al TG1 delle 20, i concorrenti non hanno saputo rispondere ad una domanda su Hitler, collocando il sanguinario capo nazista chi alla fine degli anni 70, chi in altri decenni, indovinando alla fine quello giusto, cioè gli anni 30 e 40, solo perché non era rimasta altra risposta possibile. Il conduttore Carlo Conti, che di solito abbozza, stavolta ha avuto un moto di sconforto, così come sarà successo a tanti spettatori che si saranno chiesti come sia possibile tanta smemoratezza. Cioè, io non l'ho visto, non lo sapevo, ma insomma, alla domanda su Hitler alcuni concorrenti al quiz di Carlo Conti hanno risposto che Hitler è vissuto negli anni 70. Cioè, una follia. Hitler è negli anni 70. continua Maria Novella Oppo, se persone che sanno leggere e scrivere credono che Hitler sia vissuto negli anni 50 o addirittura nel 68, forse non sanno neanche chi ha vinto la guerra mondiale, non sanno dello sterminio degli ebrei e in generale del mondo in cui viviamo. Che scuola hanno fatto? Che giornali leggono e che TV guardano? E fin qua. Com'è possibile che tanti non conoscano il passato, mentre ci sono grillini, uno per tutti Casaleggio, che sono capaci di leggere il futuro meglio del mago Telma? Non si capisce poi cosa c'entrano i grillini a questo punto nell'articolo di Manuela Oppo sull'Unità, che evidentemente ha un'ossessione nei confronti dei grillini e tira in ballo anche qua, forse facendo riferimento alle gaffe passate di quel grillino che aveva scritto Pinochet, Pino nome, cognome Sce o altre gaffe che in effetti ci sono state da parte di alcuni inesperti parlamentari grillini. Ma insomma la notizia è questa, al quiz su Rai 1 non hanno saputo rispondere alla domanda su Hitler, che insomma non è che sia proprio uno sconosciuto. Vabbè, ancora qualche istante prima di andare in pausa dalla prima pagina del Sole 24 Ore. A proposito delle misure prese dal governo, intanto c'è il commento di Fabrizio Forché che dà un po' la misura di tutto. Passi avanti e indietro, se lo sviluppo è una tela di Penelope. Inizia Forché dicendo: se non fosse già inverno inoltrato, si direbbe che stiamo davvero come d'autunno sugli alberi le foglie, citando Ungaretti, credo. La conferma di un'Italia che è ancora interamente in mezzo al guado e che non può rinviare scelte forti e univoche in favore dello sviluppo. Leggiamo però, è interessante, il Sole di oggi, rating 24, è il solito modo che il Sole ha di misurare l'avanzamento delle promesse e delle misure del governo in base anche all'efficacia, alla realizzabilità di tutto questo. Leggiamo, a proposito del provvedimento Destinazione Italia, polizze RC auto, sconto del 7% per chi installa la scatola nera. Poi c'è approfondimenti sul bonus ricerca, la bolletta energia, il credito alle PMI, i siti industriali, c'è l'accordo per la messa in sicurezza e il credito d'imposta per le aziende che partecipano alle riconversioni, interessati 39 siti tra cui Taranto. Questo trovate tutti gli approfondimenti sul Sole di oggi. Infine bonus libri, detrazione fiscale del 19% sull'acquisto di libri, sgravio fino a 2000 euro annui, metà per i testi scolastici e metà per le altre pubblicazioni. Questo appunto lo trovate sul Sole di oggi. 800 24 00 24, facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, chiamateci per commentare quello che sentite ma anche per raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana. Come ogni sabato in palio una smart box per due persone, addio stress questa volta. E poi insomma, se volete interagire in tempo reale con noi, i nostri account su Twitter li conoscete, @ si può fare 24. Allora, ancora una cosa dai giornali di oggi, però voglio leggerla. Figli tutti uguali, dice La Stampa, arriva il decreto riconosciuti i diritti dei nonni, tra l'altro. Ebbene sì, perché il governo ha varato un testo che mette la parola fine alle distinzioni tra figli naturali e legittimi, che riguarda un nuovo nato su quattro, e poi è stato riconosciuto anche a nonni e zii di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. E questa insomma è una curiosità, ma è anche una notizia importante. Poi c'è una cosa di cui i giornali non parlano, ma il governo ha dato il via libera anche, è un disegno di legge, certo, ma sullo stop alla cementificazione. Bellezza Italia si chiama, e l'ha detto bene il ministro dell'agricoltura Nunzia De Girolamo: è necessario avere un cambio di mentalità nel nostro paese e capire che ogni ettaro di terra impermeabilizzata è persa per sempre. Puntiamo, ha detto il ministro, ad una edilizia di riuso, di rigenerazione che possa far muovere l'economia senza danni all'ambiente e alle attività agricole. Era l'ora, vedremo, è un disegno di legge, chissà quanti step ci saranno, però l'importante è che si individuino le direzioni giuste. Oh, questa è stata la settimana della protesta dei forconi e lo sarà ancora, perché mercoledì si annuncia una scesa dei forconi su Roma. La richiesta più grande è quella di uscire dall'euro, una richiesta che appare poco sensata, tutto sommato, perché soprattutto poco realizzabile. Comunque, noi abbiamo cercato chi una risposta concreta a questa idea ce l'ha. Sentiamo. Il sole giallo è colpa dell'euro, il riso gallo è colpa dell'euro, il prato verde è colpa dell'euro, il gas che perde è colpa dell'euro, il riso scotto è colpa dell'euro, quel gatto è morto è colpa dell'euro, il mio dolore è colpa dell'euro, un soffio al cuore è colpa dell'euro, è colpa dell'euro, dell'euro è colpa sua, se la vita che volevi non è più tua. È colpa dell'euro, è sempre colpa dell'euro per tutto. Io ho detto una richiesta poco sensata, non che diciamo non se ne possa parlare, ma appare complicato e poi molti hanno detto ci sarebbero delle conseguenze anche forse complicate, complesse da gestire per l'Italia. Sembra più un appunto colpa dell'euro, diciamo capo espiatorio di tutto, che non una proposta concreta. Come si fa a rendere concreta una cosa così? Ci stanno provando, per esempio, in molti posti, parlando di monete alternative, che non è uscire dall'euro, ma è favorire, per esempio, il baratto o forme di scambio che escludano la moneta in generale, tout court, dalle transazioni commerciali tra le persone. In Emilia-Romagna c'è una proposta di legge che riguarda diversi gruppi politici di questa regione. Noi abbiamo convocato il consigliere regionale emiliano-romagnolo Giovanni Favia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto lei adesso di che gruppo fa parte? Perché lei è stato eletto col Movimento 5 Stelle, poi conosciamo la sua vicenda. Sì, adesso sono nel gruppo misto, non ho più diciamo brand da seguire o capi o padroni a cui rispondere, quindi riesco a lavorare anche meglio. Ecco, fatta questa premessa, la proposta di legge come si intitola di cui parliamo, che è stata presentata poco tempo fa? Legge sull'economia solidale. E è appoggiata, io leggo da un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa, dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia dei Valori, Verdi e Federazione della Sinistra. Diciamo sarebbe sinistra, centro-sinistra più Movimento 5 Stelle, un'alleanza di cui si è parlato mille volte e che però in realtà è abbastanza inedita. Avete la maggioranza per approvarlo questo disegno di legge? Sì, la maggioranza c'è, molto molto ampia. Tutto è iniziato 2 anni fa da un mio disegno di legge e da un disegno di legge del consigliere Naldi di Sinistra Ecologia e Libertà. Sì. Ci occupavamo di economia solidale, soprattutto di agricoltura di prossimità e di gruppi d'acquisto solidale. E in seguito ad un confronto con i gruppi dell'acquisto solidale dell'Emilia Romagna, sì, abbiamo deciso di ritirare i due progetti di legge e di fare un progetto di legge più ampio che lavorasse a 360 gradi, svariando dall'abitare solidale fino alla finanza etica. Io leggo: la regione promuove la nascita, la diffusione e l'utilizzo anche da parte di regioni ed enti locali di strumenti di scambio non monetari creati dal basso, promuovendo altresì il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari. Cioè, ripeto, quando si dice usciamo dall'euro, proposta tutta da vedere, referendum da fare, cose complicatissime da gestire, invece il baratto esiste, le monete complementari esistono, se ne sta. Per esempio in Emilia Romagna c'è un progetto interessante, credo ad Imola, che coinvolge anche l'associazione industriali locali, quindi parliamo di, insomma, non di cose velleitarie da fricchettoni, ma di cose serie. E voi su questo terreno che cosa prevedete con questa proposta di legge? Ma noi semplicemente come ente pubblico non possiamo fare più di tanto, però abbiamo deciso di lavorare sul lato culturale, sulla promozione, ovvero vogliamo dare voce e uno spazio istituzionale a quelle esperienze, ovviamente che sono a norma di legge, perché sappiamo che è vietato stampare moneta. In Italia non si possono fare vere monete complementari, però si possono creare dei sistemi di scambio multilaterale di crediti e debiti. Quindi noi daremo spazio a queste iniziative, che per noi sono comunque di finanza etica, e poi promuoveremo la nascita. Imola è un'esperienza più matura rispetto ad altre, ma anche Parma, se non ricordo, anche sì, Parma, anche alla Camera Industriale di Bologna se ne sta interessando. Queste esperienze nascevano da associazioni non a fini di lucro, di cittadini impegnati sui temi economici, ora se ne stanno ne stanno capendo l'importanza anche gli industriali stessi. Ecco, ma qual è il vantaggio per i cittadini, per i commercianti, per chi gestisce attività economiche, insomma, di poter utilizzare queste forme di moneta alternativa o di baratto, diciamo di seconda generazione? Perché non si tratta semplicemente di io ti do a te un maglione e tu mi dai la bicicletta, no, è qualcosa di diverso. Scambio per esempio di servizi, ci sono anche delle piattaforme importanti, noi stessi ne abbiamo parlato, di scambio di servizi tra aziende. Quali sono i vantaggi, Fabia, in questa fase? Ma un vantaggio è che si riesce a fare economia, si aumenta la propria capacità economica pur non avendo, a parità di liquidità, oggi di liquidità ce n'è poca da parte delle banche, c'è un problema di interessi e quindi bisogna inventarsi altri sistemi. Ma ci sono due parole importanti che sono i due pilastri della legge che abbiamo scritto. Una è la parola comunità e una è la parola fiducia. Ecco, abbiamo deciso di inserire nella legge questo tipo di iniziative, chiamiamole non monetarie, intendendo come moneta il classico euro, proprio perché possono rafforzare i legami economici del territorio, creare una maggiore comunità e maggiori sinergie. Inoltre è una moneta che non è legata al debito, che non produce debito, è una moneta che viene, è uno scambio economico puro che nasce dall'iniziativa e dal lavoro delle persone, mentre sappiamo tutti i problemi che ha l'emissione di moneta, certo, a livello europeo. Quali potrebbero essere i tempi, cioè di questa, cioè lei ha, come dire, la misura del fatto che andrete a votarla questa proposta di legge, oppure potrebbe rimanere lì accantonata? No, guardi, me ne prendo la responsabilità, sì, io. Entro febbraio sicuramente questo testo sarà legge, più o meno senza grosse modifiche, abbiamo già parlato, sì, con i vari gruppi politici, quindi sono certo che arriveremo all'obiettivo. Dico anche di più, dico che l'esperienza di Imola sarà in realtà a breve, che probabilmente sarà l'esperienza più grande in Emilia-Romagna e coinvolgerà circa un centinaio di imprese. Ecco, quante persone in Emilia-Romagna, considerando Parma, considerando Imola, lei citava anche Bologna, sono coinvolte? Ci sono dei numeri su quante, diciamo, che piccola fetta di economia è già interessata dal concetto di baratto e di moneta alternativa, per esempio lì da voi in Emilia-Romagna? Ma ci sono piccole esperienze, siamo sotto il centinaio in tutta la regione di attività commerciali e di imprese che, sì, che si stanno, come dire, interessando a questo tema o che ne stanno già facendo parte. Però l'interesse c'è e potrebbe crescere una volta che per esempio questa legge sostenga tutto questo insieme di cose. Le è dato fastidio l'avvicinamento col movimento dei forconi? Non so lei che ne pensa. No, noi, sa, quello è un movimento d'opinione, di piazza, noi siamo nelle, che va rispettato, noi siamo nelle istituzioni, facciamo un altro tipo di lavoro, a questa legge ci lavoriamo da 2 anni, è una legge tra l'altro che siamo riusciti, impegnandoci per non farla diventare una legge di bandiera, a mettere insieme più gruppi politici. Come dicevo, io me ne prendo la responsabilità del percorso che deve terminare entro la fine di febbraio. Sono riuscito ad essere relatore di questa legge e quindi ho già contattato il Presidente di Commissione per arrivare fino in fondo in tempi brevi. Sarà la prima legge in Italia di questo tipo, così a 360 gradi, e speriamo che possa dare dei risultati, perché bisogna cambiare in parte i paradigmi di questa economia, perché la crisi è anche una crisi sistemica, non è solo una crisi finanziaria, quindi forse può essere il momento giusto per un cambiamento profondo che per piangersi addosso su questo tema della crisi, che è fortissima ma che va comunque presa per le corna, bisogna con l'intelligenza e con la determinazione cercare delle soluzioni. Grazie Giovanni Fabia, vi verremo a trovare a febbraio quando, come promesso, la proposta di legge sulla moneta complementare e sull'economia, diciamo, etica in regione diventerà realtà. Grazie intanto, in bocca al lupo. Grazie a voi. Buongiorno Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti. Con noi, ben ritrovato. Grazie. Hai sentito che bella storia qua in Emilia Romagna con la moneta complementare, vogliono insomma favorire il baratto. Bello, sì, ho sentito. Si faceva da bambini il baratto, però insomma è una cosa che può essere anche una cosa ha degli sviluppi. Assolutamente, dovremmo anche parlare di Bitcoin, secondo me, prima o poi, qui a, a Radio 24. Diciamo che tu questa c'hai la mania delle parole inglesi, che vuol dire? No, è questa moneta elettronica virtuale che di cui in realtà si parla tanto, anche perché adesso il Bitcoin è tipo, credo, a 540 dollari l'uno, e all'inizio valevano pochissimo. Però allora, insomma, io non ne so parlare con precisione. Ci porti un ospite qualificato su questo. Va bene, va bene. Sei stato ci a Torino a girare il film. Sono stato a Torino tutta la settimana. Sei riuscito a viaggiare senza intoppi per via dei forconi? Ma ti io hanno sono bloccato? No, hanno bloccato tantissimo, devo dire. Sono arrivato a Torino, che era domenica scorsa, e addirittura sembrava che non si potesse girare il film perché bloccavano strade e soprattutto si muovono in piccoli gruppi, e quindi improvvisamente si appaiono dal nulla. Sì, quindi poi anche ti hanno visto, gli sei stato simpatico e ti hanno fatto passare. No, no, no, beh, ma io ero nelle mani di una produzione, quindi ti hanno scortato. Esattamente. Però sono riuscito anche a ritornare a Milano, insomma, tranquillamente, quindi tutto è andato bene. Era divertente parlare con i tassisti dei forconi, un po' perché per radio continuavano a arrivare le notizie del tipo non si può circolare in via 20 settembre, e allora improvvisamente si deviava da un'altra parte e girava tutto il traffico. Per questo prosegui il tuo stage da opinionista Radio 24. Sì, proseguo. E la prima notizia in realtà è una notizia di stanotte, che è bruciata la casa del Grande Fratello. E no, mi è arrivato a Roma. Sì signori, a Roma, Cinecittà, addirittura Repubblica titola "In fumo la 13ª edizione del reality". Forse è una scusa per non farlo, perché non andava benissimo con gli ascolti. No, no. Guarda, è vero, ma non c'è, si può dire, si perché fatto male, no? No, nessuno si è fatto male, però non si conoscono, diciamo, le cause. Siccome è il terzo incendio a Cinecittà nel giro di pochi anni, diciamo che si immagina, e soprattutto che il Grande Fratello doveva iniziare il 23 gennaio, diciamo che si immagina che sia di matrice dolosa in questo senso. Ma chi è che potrebbe avere interesse a non far andare in onda il Grande Fratello? Ma questo non lo so, magari qualcuno se che non è stato pagato, magari qualcuno che questo tu dici magari qualcuno che non è stato preso dal Grande Fratello, questo non lo so. Però comunque l'incendio è un incendio serio, è stato spento addirittura con dei mezzi militari, anche la regia è andata in fumo, quindi non si sa se il Grande Fratello andrà in onda. Ce ne faremo una ragione. Sì signori. Invece notizia: dopo la fuga dei cervelli, la fuga delle prostitute. Pare che le prostitute, ma perché tutti sabati mattina? Il sabato mattina è la notizia giusta, perché noi ci svegliamo a quest'ora. Ma io fino all'altro ieri il sabato mattina di solito arrivavo lungo, ed era ancora il mio venerdì notte questo. Adesso invece mi tocca svegliarmi presto, andare a dormire presto, così, per mantenere il ritmo. E poi è una notizia economica questa, caro mio. Quindi è giustissima sia la mattina e sia qua a Radio 24, perché pare che molte donne che addirittura rilasciano dichiarazioni del tipo: all'inizio ho fatto un po' la frontaliera, poi ho preso la casa in Svizzera. Addirittura. Esatto, quindi sembra di beh, la Svizzera pare che sia un paradiso da questo punto di vista. Ho visto dei servizi, forse anche di report, che parlavano di un boom della prostituzione. Forse esatto, perché è legale, e lì come dicono le stesse prostitute, noi paghiamo i contributi, la cassa pensione, la cassa malati, siamo un'attività registrata e monitorata con ogni tutela e garanzia contro lo sfruttamento. Saranno contenti quelli che fanno le battaglie contro la prostituzione, visto che se c'è questa fuga. Sì, però la cosa interessante è che in Svizzera la maggior parte dei clienti anche è italiana, e quindi abbiamo prostitute italiane con clienti italiani, che tra l'altro i clienti italiani tutti preferiscono la prostituta italiana, perché almeno ci possono anche fare due chiacchiere, perché solitamente non sanno le lingue. E cosa succede? Prostitute italiane con clienti italiani, e le tasse vanno tutte alla Svizzera, perché questi consumano, hanno il loro scambio, diciamo, economico e commerciale, e i soldi delle tasse e forse anche dell'IVA, non so se c'è l'IVA sulla prostituzione, non lo so, l'hanno messo al 22, cresce in continuazione, forse cresce durante il rapporto l'IVA, come fermiamoci qua. Allora vediamo se riusciamo a fare un ascoltatore prima di andare in pausa. Carmine dalla provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno. Lei su cosa voleva intervenire, Carmine? Allora, in prima luogo volevo dire che la regione Emilia Romagna non si è inventato nulla di nuovo, perché tempo fa ci fu un esperimento del genere già da parte del professor Giacinto Auriti dell'Università di Teramo. Giacinto? Praticamente Auriti? Praticamente una, sì, Giacinto Auriti. Va bene. Fece una moneta di tipo privato. Ce lo segniamo. No, ma qui la differenza è che è una legge regionale, non un'esperienza privata. Però sì, praticamente noi dovremmo già prendere coscienza del fatto che male, la moneta, il valore alla moneta lo attribuiamo noi. Ad esempio tra me e lei ci potrebbe essere un accordo per scambiarci qualche cosa al quale attribuiamo un valore. Allora, se prendessimo coscienza di tutto questo, togliamo il potere alle banche. Poi ogni tanto vedo che in tutte le trasmissioni, come ha fatto anche lei, ventilate questo fantasma, questa paura dell'uscita dall'euro. Così come ci siamo entrati nell'euro, così ci possiamo uscire dall'euro. Va bene, Carmine, ho capito. Adesso devo salutarla perché abbiamo il giornale radio, però insomma io non ho detto che non si può fare, ho detto che suona come una proposta, ma l'hanno detto tutti, insomma, più che una proposta, una rivendicazione, insomma, un grido di dolore, perché poi quanti credono davvero che usciremo dall'euro? Nessuno. 800 24 00 24, torniamo dopo il giornale radio, a più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ben ritrovati per intervenire in diretta, per raccontarci anche che cosa ha reso bella la vostra settimana. Il racconto più bello, a giudizio insindacabile nostro, assolutamente, assolutamente, vince oggi una Smartbox dal titolo Addio Stress. Insomma, meglio di nulla. Ma ottimo, direi addio stress per tutta la vita. Allora, sentiamo un po' Luciano che ci chiama dalla provincia di Ancona. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Lei che cosa voleva dirci, Luciano? Allora, ecco, 2 mesi fa sono incappato in una truffa acquistando un'auto, pagandola come da contratto prima dell'immatricolazione. E poi con i ritardi, le banche, la crisi, un momento abbiamo un po' di crisi di liquidità, non siamo riusciti a immatricolarla, l'auto era in filiale. Questo ha reso bella la sua settimana? No, non credo. No, questo era il cappello. Ma scusi, ci spieghi meglio la truffa, vogliamo capire. Com'è che si subisce una truffa acquistando un'auto? Praticamente uno per contratto deve dare i soldi prima dell'immatricolazione, poi i ritardi che sì. Dovuti alla crisi di liquidità, alla crisi eccetera eccetera, te la darò la prossima settimana, fra 15 giorni riesco a dartela, poi tutto un tratto va in concordato preventivo, non ti posso dare più l'auto, mi dispiace, non possiamo fare niente, io insieme ad altri 12 ma perché questa era una ditta che stava fallendo, che è successo? Sì, questa succursale che dice che non riusciva ad andare più avanti, non ha pagato i propri dipendenti per 6 mesi, tutto un tratto non si può prendere più niente. Oddio, e lei quanto aveva speso? Avevo speso 8.200 euro, e sono pensionati i soldi della mia liquidazione praticamente. Parte insomma della mia liquidazione. Ma e loro non le consegnano la macchina? Non ci consegnano più la macchina perché che lei ha già pagato in parte. Cioè, hanno venduto la macchina, poi siccome questa ditta sta fallendo o dice di che sta fallendo, con questa scusa, forse anche con qualche pezza d'appoggio, la macchina non te la posso più dare. Sì, la cosa è strana perché nel senso che è una succursale, una volta che tu hai pagato la macchina deve arrivare, cioè o questi hanno venduto la stessa macchina 8 volte. Ma la macchina era già lì, appunto, la vedevo e non potevo prenderla. Luciano, però poi lei c'è una rivalsa in tutto questo? Poi diciamo abbiamo chiamato la casa madre dicendo sì. di questo problema eccetera eccetera, e la casa madre forse per mantenere il buon nome, adesso non posso fare il nome della marca dell'auto. Veda lei, non è che abbiamo problemi, però una Suzuki comunque. Il risultato finale qual è? La buona notizia è che mi hanno mandato il libretto l'altro ieri. Delle istruzioni solo. Con il mio nome e la filiale dove posso andarla a prendere. E martedì prossimo prendo l'auto che diciamo. Ecco, allora facciamo così. Madre, Luciano, ci richiami però domenica, sabato prossimo. Perché siamo mica sicuri che arrivi la macchina. Sicuri, diciamo. Però ha avuto il libretto. Siamo, esatto. E quindi, avuto il libretto via mail. È già qualcosa, le dice. Però per 8.000 euro bisogna che arrivi anche la macchina. Può sempre leggere il libretto, diciamo, per la prossima settimana. Non essere irriverente nei confronti del povero ascoltatore vessato. No, chiedo scusa. Va bene, abbiamo imparato una cosa di più. Grazie, Luciano. Grazie. Certo, vedi come siamo messi. Cioè, la notizia è essere usciti fuori da una truffa. Incredibile questa cosa qua. Di stress. Aveva ragione Leopardi, si sta bene solo dopo essere stati male. Non è che si può star bene a prescindere. Roberto. Però ne avrebbe bisogno, direi, del smart antistress. Sì, questo nostro ascoltatore sì. Quindi si candida. Esatto. Roberto dalla provincia di Bergamo. Pronto? Buongiorno. Eccolo. Sì, pronto. Sì, la sentiamo bene. Sì, salve. Salve, ci dica. La mia notizia buona? Sì. Sì. Voi sapete che in provincia di Bergamo si festeggia Santa Lucia? Sì. Cioè i regali. No, non lo sapevo. Mia figlia ha fatto la lettera a Santa Lucia. Sì. Senta, se, scusi, Roberto, mi scusi, può parlare un pochino più distante dalla cornetta? Okay, perché sentiamo, ecco, molto, perfetto. Molto meglio. Ok. Niente, nella lettera di Santa Lucia mia figlia ha messo: speriamo che il nonno torni dall'ospedale, come regalo voleva che gli portasse Santa Lucia. E infatti così è stato, mio padre dopo il giorno di Santa Lucia è tornato all'ospedale. Quindi la buona notizia, oltre che il ritorno, diciamo, dall'ospedale di mio padre, è anche che mia figlia ha pensato a questa cosa come regalo. Bello, sua figlia. Quanti anni ha sua figlia? Non ho capito. Mia figlia non è piccola, perché se fosse stata piccola, capisco. Mia figlia ha 14 anni. Sì. Quindi anche non piccola, però come desiderio è stato quello del nonno a casa. Grazie, grazie, una storia natalizia, una bellissima, e tra l'altro che mi ricorda una cosa terribile, che è il mio vero motivo di stress, che io devo fare la lista dei miei regali di Natale, perché mia mamma mi ha detto che se non arriva entro oggi a mezzanotte perdo la possibilità di ricevere qualcosa. Ho un SMS che ho twittato ieri. Cioè, perché tu credi ancora a Babbo Natale? Certo. Ah, ecco. Io la letterina la do a mia mamma, ma mia mamma poi la manda a Babbo Natale. È lei che interferisce. Babbo Natale perché non esiste secondo te? No, certo esiste. Chiedo parlato di tua mamma, i regali li fa Babbo Natale, appunto, non capivo cosa c'entrava tua mamma. È perché mia mamma ha il fax di Dio, ovviamente, è quello il giro. E di Babbo Natale. Tra l'altro, sì, agli ascoltatori che chiamano, io vorrei chiedere anche se mi danno dei consigli, perché io non so che cosa mettere in questa lista e sono preoccupatissimo. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pa, comando pa. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone. Scorrerà, infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no, se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò. Carlo, hai seguito la querelle della Reggia di Caserta di questa settimana? Ne hanno parlato tutti, anche il Papa mi pare che ne abbia parlato. No, forse il Papa. No, forse il Papa non mi sembrava, o comunque non mi ha chiamato per dirmi niente il Papa riguardo questa cosa. Hai seguito il corno? Il corno, ho seguito il corno. Alto 13 metri? E che è bello anche il numero dei metri, direi, essendo un corno. Certo, non è casuale. Esattamente. Un corno porta fortuna davanti alla Reggia di Caserta perché non si sa perché. Perché a me piace quest'arte, diciamo, degli oggetti sovradimensionati, sì. Che è un po' come qui a Milano, a Cadorna, che c'è l'ago, giusto? Sì, poi c'è il dito. Il dito, esatto, quello. Non volevo parlare di nuovo del dito, ma hai guardato come per dire parlerei mica di nuovo del dito davanti alla borsa, sì, perché sì. Dà fastidio qua. È sempre del dito che parli tu, infatti, è proprio quello. Salutiamo il sindaco di Caserta, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Come sta, sindaco? Pio Del Gaudio. Bene, grazie. Abbiamo letto però la notizia poche ore fa che lei, che è l'artefice, diciamo, di questa idea, il corno davanti alla Reggia. Io poi ho detto chissà perché in realtà non è che il problema della Reggia sia la sfiga, è che cioè l'incapacità italiana di fare le cose. Però lei ha detto che forse si sposterà, vuol togliere questo corno. Sì, ma allora, noi l'abbiamo detto dall'inizio, è stato stesso, intanto è un'opera d'arte che verrà... E piace anche a Filippo D'Averio, ho letto che Filippo D'Averio ha detto che va bene. Sì, no, ma noto è bello, è un'opera d'arte che poi si può discutere. Noi l'abbiamo messa fuori la Reggia per provocazione, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un'operazione di marketing... Sì. Per richiamare l'attenzione sulla Reggia. Chi è l'artista, mi scusi, sindaco? Perché lei dice un'opera d'arte. Raffaele Esposito. Raffaele è un artista che espone un po' in tutto il mondo, a New York, un po' da tutte le parti, fa queste opere, fa dei corni e dei grandi pulcinella. E questa cosa l'ha fatta proprio per voi? Sì, sì, l'ha fatta per noi. Noi abbiamo avuto un finanziamento regionale, il progetto diciamo è stato vincente proprio perché era un corno, aveva una premialità particolare. E quanto costa il corno di 13 metri? Com'è? Quanto costa il corno di 13 metri? Allora, compreso al metro anche, installazione, opera e tutto il resto, sono 56.000 euro più IVA. Alla faccia, il ricarbonato. Beh, no, non mi sembra tanto. Non è tanto. No, non è una cifra esagerata. No, neanche secondo me. Ma tenga presente che siamo su tutte le televisioni d'Italia, televisioni straniere, eccetera. Abbiamo fatto un'operazione di marketing che sarebbe... Questo sì, questo sì. Che sarebbe costata molto di più, è vero. No, bisogna dire questo perché... È una provocazione, sì, che io ho riferito chiaramente anche al ministro. Mi serviva l'ottimo ministro Brai, tra l'altro. Mi serviva una... scuotere un funzionariato che alla Reggia di Caserta non lavora come dovrebbe lavorare, tant'è vero che i turisti in 10 anni sono scesi di oltre 700.000 euro, 700.000 persone sono passati da 1.200.000 degli anni del 98 ai 450.000 del 2013, quindi un'azione di marketing per rilanciare. Devo dire che dobbiamo anche dare atto al sindaco, perché se una cosa del genere la facevano, che ne so, in un altro a New York, saremmo tutti qua ad applaudire. Ah, ma che figata, che bello, cioè, il dito davanti a Piazza d'Affari, va bene, il corno tutti, no, ma è una provocazione. Io sono stufo di una cultura di valorizzazione dei beni culturali che è solo a chiacchiere, ma di fatto non si fa. Valorizzare un bene culturale vuol dire attento anche a quello che dice sindaco, perché lei ha delle responsabilità, e quindi quando dice che è stufo delle chiacchiere, sa com'è, i cittadini pensano, ma lei sindaco dovrebbe fare i fatti, non le chiacchiere, quindi come la mettiamo? Guardi che i sindaci sono eletti direttamente dal popolo, e fanno i fatti, ma non peraltro perché vedono tutti i giorni i propri cittadini. Le chiacchiere le fanno in altre sedi e in altri contesti, ma noi abbiamo il contatto giornaliero con le persone. Anche il fatto più che il contatto, diciamo che siete a vicinanza di schiaffi, ecco, solitamente. Abbiamo gli elmetti addosso. Adesso non dare dei suggerimenti. Ci sono tanti cittadini che sono contenti, altri che si lamentano, ci confrontiamo. Io ora sono appena uscito dalla Reggia, perché vado a correre alla Reggia. Ho incontrato persone che mi dicono bravo, persone che mi dicono cattivo, però intanto attorno al corno c'erano in questo momento tante persone che facevano le fotografie, stranieri. Certo. Quindi vuol Senta, dire però, che l'operazione allora, marketing è riuscita. Mi scusi una cosa, due cose, anzi, lei va a correre alla Reggia? È marketing anche questo o corre davvero? No, corro con i miei amici, no. Lei quanti anni ha? 46. E corre, vabbè, giustamente il sabato e la domenica mattina è una bella giornata. Complimenti, lì. Alle 9 del mattino. Fantastica. Fantastica. Però dicevamo, l'operazione di marketing è riuscita, la gente va a fare le foto e lei adesso il corno lo toglie. Perché non lo lascia lì? No, aspetti, allora noi abbiamo chiesto un'autorizzazione alla sovrintendenza per installarlo, perché comunque la piazza è vincolata e noi dobbiamo rispettare le norme. Non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi l'abbiamo installato. Nel momento in cui sovrintendenza ci chiede di toglierlo, lo spostiamo. Quindi è il sovrintendente adesso che è intervenuto. Il sovrintendente che di fronte all'incuria della Reggia non fa niente, però di fronte al corno sì. Il problema non è il corno, il problema è quello che c'è dietro il corno, la Reggia, il parco. Tenga presente che l'iniziativa che è stata provocatoria è venuta fuori anche dall'esasperazione di avere un parco della Reggia chiuso a seguito degli eventi climatici che ci sono stati 15 giorni fa. L'amministrazione ha cercato di collaborare, di dare una mano alla sovrintendenza, non c'è stata data risposta anche su questo motivo, su questa questione, per cui a un certo punto abbiamo avuto il parco chiuso per una settimana nel periodo di Natale, e quindi con i turisti che venivano e si lamentavano. Senta, sindaco, tenga presente che il giardino inglese ancora adesso è chiuso in parte, glielo dice uno che cinque minuti fa è andato a correre, quindi voglio dire, io conosco bene la questione. Allora, esasperato da un inattivismo, o comunque non a un esasperato da un'attività che non fanno con la dovuta solerzia, ecco, fretta, è questo il punto, però amore. Da chi dipende, sindaco? Perché lei ha detto uno dei problemi è i dipendenti della Reggia, quanti sono? No, io non dico che sono No, mi faccia fare la domanda, non tiri indietro la mano. Sono tanti, i dipendenti sono 400. Lei ha detto prima, aspetti un attimo, sindaco, stia calmo, stia sereno. Lei ha detto, uno dei problemi che stiamo affrontando anche col ministro Brai è quello di far lavorare questi dipendenti, perché non si fa, ora non è possibile che con 400 dipendenti, ha detto? Sì, mi sembra 380, 390. Si possa ancora parlare di incuria per la Reggia, perché quanti dipendenti dobbiamo averne? 1500. Allora, c'è questo problema. di chi è la colpa, da chi dipende le chiediamo noi, che vogliamo capire. Quindi, sempre di Comà, quindi della sovrintendenza, è ovvio. E perché il problema di fatto è che questi dipendenti non possono fare lavori di pulizie, di manutenzione, di bassa manovalanza, e quindi il problema per cui uno va alla Reggia e trova delle forme di incuria è legato anche a questo. Sicuramente, ma è normale, quando un comune funziona la gente se la prende col sindaco, quando la sovrintendenza non funziona bisogna prendersela con i sovrintendenti, è normale. Vabbè. Brutto? Sì, la sentiamo. Ci siamo. No, è caduto il silenzio su questo, sì. Io non entro nel merito delle attività, non do responsabilità, faccio un'analisi fredda. Il territorio e quindi l'amministrazione comunale vorrebbe dare una mano al Ministero dei Beni Culturali per far funzionare la Reggia nel miglior modo possibile. Questo è lo spirito delle nostre iniziative. Mm-hmm. Nel momento in cui riceviamo sempre dei no a questa nostra volontà di collaborazione e soprattutto c'è incuria, c'è trascuratezza, è chiaro che si fanno iniziative provocatorie, ma tutto nasce da una battaglia iniziata appena eletto 2 anni e mezzo fa. È stata una battaglia serena, tranquilla. Fatto è che i turisti muoiono, vanno via, non vengono e quant'altro. Il territorio è un territorio difficile. A proposito dei turisti, sindaco, io ricordo però una polemica, non so se ricordo bene o se ricordo male, sugli autobus. È vero che lei a un certo punto ha spostato il tragitto degli autobus per portare i turisti in centro a Caserta per fargli fare un po' di acquisti, e qualcuno diceva però che lei aveva tolto turisti alla Reggia in questo modo perché non volevano fare il pezzo a piedi. Noi con tutte le associazioni abbiamo chiesto di portare i turisti in un'altra parte della città per far attraversare la città e quindi spendere e quant'altro. Ma a proposito di questa cosa non ha funzionato, ma a proposito di autobus le dico che ancora oggi all'interno della Reggia ci sono gli autobus, quelli da 50 posti, non ci sono quelli piccolini da 20 posti, 15 posti per i turisti. Per questo le dico, c'è una gestione che è una gestione sicuramente nel rispetto delle regole, ma è una gestione non consona con un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo. Tenga presente che la sovrintendente non vive a Caserta, è a Caserta 2-3 volte a settimana. Allora, per dire, il sabato e la domenica che ci sono problemi, ci sono che afflusso di gente eccetera, non c'è quella presenza costante. Allora la mia lamentela è questa: dato che la Reggia è uno dei monumenti più importanti del mondo, ci vuole un intervento straordinario. Tenga presente inoltre che con il ministro Brai, che io apprezzo infinitamente, abbiamo definito dei percorsi di manutenzione, ad esempio esternamente alla Reggia, perché compete al comune. Noi stiamo spendendo tante risorse per sa cosa pensano gli ascoltatori quando sentono parlare di percorsi? Pensano, sì, vabbè, non faranno nulla neanche questa volta. Sindaco, a parte la battuta, vabbè, ma non dobbiamo entrare adesso sui percorsi che avete stabilito col ministro Brai, perché questo, se farete qualcosa di concreto, lo vedremo. Lei ha chiarito anche dal suo punto di vista quali sono le responsabilità, lo vedremo, speriamo, incrociamo le dita. Grazie intanto, grazie. In bocca al lupo per tutto, per la Reggia. Diceva, ci vuole un intervento straordinario, non so se pensava all'esercito per ripulire la Reggia, oppure ai carcerati, come succede per esempio a Palermo. Sentite qua. È finita l'epoca dei detenuti che spaccano i sassi lungo le autostrade come si vedeva nei film americani. Oggi molti carcerati vengono impiegati in lavori sociali, meno faticosi ma altrettanto utili, come portare alla luce gli scavi archeologici del rione San Pietro a Palermo. I protagonisti sono alcuni detenuti del carcere Pagliarelli, come ci spiega Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro di Palermo. Il centro Padre Nostro, insieme all'associazione Gruppo Sali, la sovrintendenza e il comune, abbiamo cercato di portare alla luce degli scavi archeologici che sono stati riportati alla luce dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Palermo e che grazie all'aiuto dei detenuti la stiamo riportando alla fruizione. È un progetto molto ambizioso, però, che vede la collaborazione di questi enti che già ho citato, ma soprattutto dalla direzione del carcere Pagliarelli. Noi la mattina andiamo a prendere dei detenuti in carcere, li portiamo nella zona archeologica, loro lavorano presso questa zona archeologica e poi fanno un pranzo, una pausa e riprendono i lavori. Ha una duplicazione questo progetto: uno è quello di riportare alla luce una parte importante del centro storico di Palermo, e aprirla alla fruizione della gente, dei turisti. Un altro è quello di dare un senso alla pena di questi detenuti, che altrimenti starebbero in carcere per 18 ore al giorno nelle loro celle senza fare niente. In questa maniera invece abbiamo la possibilità di far capire che il detenuto è un soggetto che va reinserito nella società. Sentirsi come papà senza santi da pregare si può fare, ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare. E buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E ricordiamo tutti i nostri contatti, se volete così interagire in tempo reale con noi. Il numero verde 800 24 0024. Cosa ha reso bella la vostra settimana? Chiamateci, si vince una smart box per due persone, addio stress. E poi su Twitter si può fare 24, i nostri account @ Carlo Gabardini e mio @ Ale Maurizi. Allora, abbiamo qualche ascoltatore, vediamo se vogliono commentare quello che hanno sentito oppure raccontarci cosa ha reso bella la loro settimana. Mariangela da Savona, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Io ho avuto una bellissima notizia questa settimana, perché ho iniziato a marzo a scrivere un romanzo che poi ho preso, mollato, perché fra impegni vari di lavoro e di casa, poi c'è stato anche mio figlio che si è rotto una clavicola, ho dovuto rallentare nella produzione. Finalmente sono riuscita a fine settembre a concludere la storia. Ah, molto bene, complimenti. Grazie, io da solito da anni scrivo brevi racconti, però questa è stata una prima esperienza un po' più lunga, che devo dire sta andando bene. Ho interpellato un unico editore, ho iniziato con un editore genovese che so essere propenso a considerare autori nuovi. E l'hanno la pubblicano. Beh, insomma, complimenti, perché aver interpellato un editore e averlo beccato subito quello giusto. Ma anche solo essere riusciti a finire un romanzo. Ha avuto anche fortuna. Sarebbe il mio sogno. Grazie, Maria. La invidio moltissimo. Io posso dire trovateci. Brava. Va bene. Tra l'altro, ci sono anche le detrazioni fiscali del 19% sull'acquisto di libri, approvate ieri da Destinazione Italia. Mi state aiutando, grazie. Questo è interessante. Le detrazioni fiscali. L'ha approvato ieri il governo sui libri di carta. Grazie, Maria, ma il suo sarà un libro di carta o un ebook? Sarà tutte e due. Brava, bisogna andare anche nel futuro. Corrado dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Senta, io ho avuto mercoledì una bella notizia, perché mia figlia per la prima volta ha vinto una partita di pallavolo, considerato che l'anno scorso aveva fatto circa 30 partite. Le aveva perse tutte. Le aveva perse tutte. Beh, ma però... Sì. Cioè 30 partite perse tutte adesso... È un record però questo qua. Le perse tutte, però qual era la mia bella notizia? Perché lei dopo le prime partite che ha svolto non mi voleva più che io andassi sugli spalti, perché pensava che lei portasse il corno, il cornetto. Siamo tornati al cornetto. Ma scusi, come si chiama la squadra di sua figlia? Perché voglio vedere se l'hanno messa nel Guinness dei primati, perché 30 sconfitte credo che sia un record. No, è una squadra dilettantistica, nel senso, mia figlia ha 12 anni, è una squadra dilettantistica. Allora, comunque le ha perse tutte. Qual è la bella notizia? Che ne ha vinta una. No, anche quest'anno non vuole che io vada a... Vabbè, senta, ma ce la dica qual è la buona notizia? No, glielo dico io, è che finalmente una partita. No, è che finalmente lui può andare a fare un'altra cosa il sabato pomeriggio anziché andare a vedere la partita della figlia, può andare a spasso con la moglie e fare altro. È questo, vero Corrado? Guarda, babbo, te non vieni. No, va bene. Comunque mercoledì mi ha chiamato dicendo che ha vinto. Ecco, questa era la buona notizia. Ottimo. Grazie, salve, Corrado. Grazie. Grazie, salve. Salve. Yeah. Second chance, una seconda chance. Tutti la vorrebbero, no, nella vita, una seconda chance. Anche la terza, la quarta, la quinta. Ma almeno una seconda chance per esempio per chi è detenuto in carcere. Bisognerebbe darla, per esempio, anche nel mondo del lavoro. È quello che fa con profitto Luciana Delle Donne. Intanto buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Imprenditrice, titolare, non so se il marchio Made in Carcere è anche il nome dell'azienda, se si può dire così. Sì? La cooperativa No Profit e Officina Creativa. Officina Creativa, che produce dei prodotti, soprattutto di stoffa, venduti poi su un sito che si chiamano Made in Carcere. Lei è una persona, anche un personaggio e anche una personalità. Tra l'altro ieri è andata in onda la sua storia sulla 7 ieri sera nel programma di Saturnino. È stata molto bella, emozionante, devo dire. Perché lei è una personalità, anche è stata premiata come personalità europea dell'anno 2013. Non so bene in che contest, ce lo ricordi lei? Per essermi distinta nel mondo dell'imprenditoria, sì, in modo unico, con modestia, umiltà e con risultati tangibili. Bellissima motivazione. Insomma, è una donna notevole. Intanto una piccola nota biografica. Lei, perché uno si potrebbe domandare, sì, ma impresa sociale, ma con la cooperativa, sono tutti fricchettoni. No, lei lavorava in banca, ha fatto carriera, poi a un certo punto ha cambiato rotta. Beh sì, sono un ex dirigente di banca, ho lavorato 22 anni in banca, ho creato il primo modello di banca multicanale in internet quando ancora non se ne parlava. E poi dopo 22 anni ho deciso di lasciare il mondo dell'innovazione tecnologica e dedicarmi a quello dell'innovazione sociale, lasciando la possibilità a tutti, appunto, di una seconda chance e di capire che per vincere bisogna combattere. E lei che tipo naturalmente di... nel buon senso del termine. Certo, lei che tipo di guerra combatte? Che tipo di chance dà a queste donne del carcere di Lecce? Io amo dimostrare a tutti, non soltanto alle donne detenute, chi mi incontra, chi mi attraversa, che si può generare cambiamento solo volendolo. Quindi siamo tutti quanti protesi verso diciamo un po' di indifferenza e ci stiamo appiattendo con un po' di mediocrità diffusa, come se ce la mettessero con il Lexotan nei condizionatori d'aria. Io voglio dimostrare che combattendo per un benessere comune possiamo essere felici con niente. Io ho rinunciato ad una ricchezza importante nel momento in cui ho lasciato il mondo della finanza, ma proprio perché amo le sfide e amo dimostrare che si può fare in tanti modi. Ho fatto banca in modo eccellente, adesso mi sono improvvisata, diciamo, imprenditrice, stilista, perché disegno i modelli di tutti questi accessori che produciamo come sì, in carcere. Ah, li disegna lei, disegna anche gli accessori? Sì, sì, anche sono anche geniali, perché un po' geniali, devo dire, perché abbiamo per esempio un porta iPad che ci infili le dita e puoi lavorarci tranquillamente. Io ho la fissa di avere, cioè, attraverso le la mani stoffa libere. Oppure ci sono i buchi, sì, per infilare le dita, no, perché ci vuole il polpastrello. Ci sono degli accorgimenti, mi farà piacere spedirvene un paio per testarli anche voi. Molto volentieri. Grazie, ma sì, no, non era questo il motivo dell'intervista. Che dicevo, tolgo nel mio elenco dei regali per mia mamma. Ecco, così lo regaliamo. Esatto. Senta, Luciana, quindi voi fate sostanzialmente che borse, porta iPad, braccialetti. Io ho cominciato a fare, e li vendete su internet? Su internet con il passaparola, ma noi soprattutto li vendiamo per aziende che vogliono fare comunicazione sociale, sì, che vogliono acquistare un gadget etico. Cioè non ha senso comprare quelle borse cinesi, per non offendere i cinesi, certo, ma comunque quelle borse inquinanti che dopo due giorni si buttano. Perché voi, cioè, diciamo, c'è anche questo messaggio, recuperate stoffe, sì, scarti di stoffe. Esatto, noi recuperiamo tessuti dai vari magazzini, tantissime società ci donano molto tessuto, e noi da quelli produciamo queste borse bellissime che, con il logo dell'azienda che ci sostiene, che acquista le borse, durano anni, perché sono belle, sono tessuti buoni, importanti, e le aziende sono felici di regalarle. Quante donne lavorano con lei in questa avventura? Noi in questa avventura, che è cominciata a Lecce Trani, siamo circa 20. Poi escono, bisogna formarle, finisce la pena detentiva, vengono trasferite. Però il progetto ormai si è ampliato in tutta Italia, perché grazie ad un progetto che si chiama Sigillo, è una piattaforma che sviluppa laboratori in tutta Italia, quindi l'ambizione è quella di far lavorare quante più donne possibile. Perché una volta che sono uscite non possono più lavorare per il progetto? Per noi in particolare no, tranne alcune che magari possono, o che si sono particolarmente distinte, o che c'è un laboratorio, e noi abbiamo avviato un piccolissimo laboratorio con due persone soltanto, che quando possono uscire, si chiama articolo 21, escono, lavorano e poi tornano in cella a dormire. Questa è una, certo, è una apripista per la loro libertà successiva, perché sì, perché è un buon comportamento, e i magistrati, diciamo, riconoscono la loro buona disponibilità. È stato difficile aprire queste attività lavorative all'interno delle carceri italiane, stante le leggi italiane, insomma, si parla sempre delle difficoltà della burocrazia. Nel suo caso è stato complesso? È complessa qualsiasi cosa abbia poi il concetto di innovazione. L'innovazione disturba sempre, perché è una cosa che cambia lo stato delle cose, modifica le abitudini, i comportamenti, quindi qualunque cosa innovativa crea disagio, e questa è la mia sfida, quello che mi piace di più. Come ho fatto in banca, l'ho dimostrato anche in questo modello di impresa sociale sostenibile, che noi vendiamo le borse e paghiamo gli stipendi alle detenute, ed è un modello semplice. La difficoltà c'è ogni giorno, come dice il direttore Antonio Fullone del carcere nell'intervista di ieri sulla 7 con Saturnino. Lui diceva che si vince e si perde ogni giorno, e solo una persona che vuole combattere con tenacia guarda lontano l'obiettivo, non vede le difficoltà del giorno, vede l'obiettivo di fine anno. E lei sicuramente l'obiettivo ce l'ha fisso in testa. Qual è il suo obiettivo adesso? Vuol crescere, vuole andare anche nelle altre carceri? Ha in mente un numero di persone che vuole coinvolgere, un numero di carceri? Cosa vuol conquistare l'Italia? No, io voglio dire che un dato che nessuno prende in esame è che la detenzione femminile consta di sotto il 5%, su 65.000 detenuti solo 2.800 sono donne. Questo è un dato importante che nessuno tiene in considerazione. Cioè, di tutti i detenuti italiani solo il 5% sono donne? Esatto, sotto il 5%. Io non vi ho fatto la domanda perché magari non avevamo tempo, ma sicuramente avreste risposto il 50%. Sì, io avrei sbagliato di sicuro, proprio non lo sapevo. No, è vero, è un dato incredibile. È un dato incredibile. Vuol dire che gli uomini delinquono il 20 volte più delle donne, è interessante, direi. Esatto. Oppure siete più furbe e non vi beccano, perché potrebbe anche essere questo però il motivo. Sto scherzando, ovviamente. No. Diciamo che le pene, diciamo, i reati maggiori sono omicidio di marito e complicità. Adesso bisogna occuparsi però di far lavorare anche gli uomini in carcere a questo punto. Come no? Ma noi abbiamo creato una cittadella del tessile, ecco, e stiamo avviando, sempre con grazie al direttore Fullone, stiamo organizzando un laboratorio dove si tagliano i tessuti, si stampano i tessuti e si cuce. E poi abbiamo creato una logistica, quindi un deposito dove c'è poi tutta la merce che ci arriva dalle varie aziende. La mia sfida è dimostrare che si può fare tutto in casa, creando una piccola isola felice. E questo è il messaggio che vorrei tanto dare. Cioè, io quando ho scelto di lavorare con le detenute era perché desideravo far risalire un gradino di benessere a questi soggetti dimenticati e abbandonati. Oggi ci rendiamo conto che forse c'è bisogno di scendere qualche gradino su quelle situazioni dove c'era prima una ricchezza che oggi non c'è più, e quindi riabituare alla povertà. E va bene, Luciana, complimenti e grazie, in bocca al lupo per le vostre attività. sì. Grazie, è la povertà che ci rende felici, eh? Questa frase la lasciamo così. No, io voglio invece concludere in un altro modo, ricordando agli ascoltatori che tutti questi progetti di rieducazione, di recupero, di lavoro nel carcere si fanno non solo perché fanno bene a quelle persone lì che stanno in carcere, ma sono anche una assicurazione, una polizza per tutti noi che stiamo fuori sul fatto che queste persone poi non commettano nuovi reati, perché la recidiva si abbassa moltissimo tutte le volte che ci sono questi progetti, quindi bisogna farli sempre di più. È bravissima Luciana, bravissima Luciana delle donne da Lecce, bella questa storia. Traffico, torniamo tra un attimo. Proprio perché amo le sfide e amo dimostrare che si può fare in tanti modi. Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Grandissima, Luciana delle donne. Abbiamo risentito anche un pezzettino della sua intervista, tagliato al volo da Paolo Corleone in regia. Adesso abbiamo un ascoltatore, Elmo, dalla provincia di Firenze. Buongiorno, intanto tra poco diremo chi vince la Smartbox Dio Stress, con la cosa che ha reso bella la vostra settimana. Elmo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato e accettato per dire la mia notizia più bella della settimana. Ci dica, ci dica. È molto recente. Ieri ho avuto un nuovo incontro con una rete di professionisti che sono riuscito ad organizzare con varie competenze per aiutare queste piccole imprese che stanno soffrendo molto e abbiamo qualcosa in comune, in quanto questa aggregazione è nata da un mio slogan, la famiglia del fare, quindi abbiamo il fare insieme. Ma qual è la notizia? Lei sembra un po' Renzi, il fare, il saper fare, come direbbe Crozza. Va bene, Elmo, grazie. No, non abbiamo più molto tempo per approfondire in realtà, purtroppo, perché dobbiamo ancora fare un altro ospite. Vabbè, ho organizzato un incontro tra professionisti per venire incontro ai bisogni delle imprese, un po' convegnistica come area. Adesso, invece, tra poco, parliamo di Milano e di bicicletta. Bicycle, I want to ride my Tu che sei esperto di pronuncia inglese, sai che c'è il Bicycle Film Festival, come si pronuncia così? Bicycle Film Festival. Bicycle, vedi? Basta andare molto molto molto veloce. Bicycle, esatto. Bicycle. È un appuntamento che ogni anno c'è a Milano, è un modo per parlare delle due ruote. Credo che ne siano in qualche modo protagonisti anche i protagonisti della storia che andiamo a raccontare, Urban Bike Messengers e il suo fondatore Roberto Peia. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 24. Buongiorno. Quando si parla di bici a Milano si parla anche di questo progetto qua. Lei quanto tempo fa ha fondato questa azienda praticamente di Pony Express in bicicletta, no? È questo? Sì, nel 2008 è nato UBM, Urban Bike Messenger, da una idea che ho spudoratamente copiato da una realtà molto diffusa da tantissimi anni, da decenni, negli Stati Uniti d'America. Bisogna copiare dove ci sono delle cose fatte bene, certamente. Certo, e lei è stato uno dei primi, perché adesso ce ne sono molti di Pony Express, va sempre la logistica, la mobilità sostenibile va per la maggiore. Quante persone lavorano con lei adesso? In questo momento 26, sono 26 ragazzi. Pedalatori tutti. Che sono la vera forza della mia azienda. Sono per lo più giovani, ovviamente, io sono il nonno della compagnia, innanzitutto amano tantissimo la bicicletta, quindi sono ragazzi che con noi fanno anche 70, 80, 90 chilometri al giorno, ma sono capaci il sabato e la domenica di andare a farsi altri 100, 150 non chilometri. Paghi, fanno... Non paghi, soprattutto non pagati il sabato. Sabato, certo. Sabato e domenica non pagati. Dicevo, farsi il ghisallo o il gavia, oppure a passare 3 o 4 ore in un velodromo, sempre a spingere. Ah, ma sono quindi sportivi d'altissimo livello? Cioè, fanno il gavia? No, non sono personaggi che potrebbero affrontare il Tour de France o la Vuelta o il Giro d'Italia. Beh, però sono sicuramente ragazzi che sanno andare molto molto velocemente. Ma fate anche l'antidoping? Fate l'antidoping ai vostri ragazzi? No, facciamo l'antidoping perché sappiamo che sono tutti molto bravi, quindi non c'è bisogno. Chi è? È una curiosità. Quello che sì. Spinge soprattutto la passione e la voglia di fare un lavoro bello che ti dà anche la possibilità di essere a contatto con la gente e di scoprire una città, la sì, tua città, Milano, in modo diverso sicuramente. Roberto, io ho una curiosità che voglio chiedere: chi sono i clienti che come Pony Express vogliono espressamente voi che andate solo in bicicletta? C'è un profilo particolare? Non c'è un profilo particolare perché spaziamo dalla piccola azienda, dal commercialista, all'avvocato, al notaio, al tatuatore, alla grande azienda, a, se posso fare nomi, a Discovery Channel. Vabbè, non facciamo nomi, abbiamo capito. Dobbiamo purtroppo invece fermarci qua. La storia però l'abbiamo raccontata. Grazie Roberto Peia, siamo un po' di corsa oggi. Dobbiamo dire soprattutto anche chi ha vinto la nostra Smartbox di oggi. A giudizio insindacabile della redazione vince Luciano, che non ricordo più da dove chiamasse. Un caso di mala giustizia, truffato nell'acquisto dell'auto, è riuscito però ad avere ragione. Sì!